Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, il programma prevede di affrontare temi quali le soluzioni ideali, i nuovi reazionari, la decadenza poetica delle strade ferrate, nonché lo sport, la scuola e le macellerie.